Friuli nel mondo, 73esima trasmissione dedicata agli emigrati, la Nestre Mari Lenghe. Fra le centinaia di lettere pervenute all'ente Friuli nel mondo, moltissimi emigrati manifestano la loro viva simpatia per la pagina friulana Quadri Chiacaris Sottlanate, nella quale, scorrendo le belle poesie ed i racconti friulani, si riportano col pensiero alla nostra terra, gustando con sentimento profondo la Nestre Mari Lenghe. Per questo, cari amici in ascolto, vogliamo oggi dedicarvi questa trasmissione, facendovi ascoltare alcune significative poesie di scrittori nostrani. Teniamo caro l'appello che ci rivolge Enrica Cragnolini d'Artegna coi suoi versi dal titolo La Panarie. Agliere une volte, pe vecchie panarie furlane, il flor de farine nostrane. Il flor della lenghe furlane, pai chiams dal Friul. Un poche di musiche nestre, pe fieste dal pur, pellegrie, e ieri in viloti stanti elis. Non stinga la salis murì. Dall'anime nestre, da laghe, da fiare, desmons son nasudis. Profum andi flors e di fen. Creaturis antighi segnovis, che disin la vita e l'amor, che disin dolore e speranze, che scherzin, che ridin, che giantin. Non stinga la salis murì. Non stinga morì a poco, o furlans. Non sting a buttarsi in tal stamp che a livele, non sting a disfalfogolar, brusin un bel cioc, la flamme tal scur, non sconte antimò l'antiche liende, non smette antimò la speranza tal pur, che quest mon torni bon. Nel congresso della Società Filologica Friulana, tenutosi recentemente a Gorizia, sono stati ricordati gli scrittori ortisontini, e fra questi Enrico Comelli, che sul Me Pais, strenna goriziana del 1855, scrisse questi versi dai quali si effonde un tepore quasi sensibile di focolari tranquilli e di cuori fidenti. Buonasera, cui che struscia no vi spera. Le finita la giornata, le finite il me lavoro, nella grazia del Signore. Buonasera. Buonasera, cui che struscia no dispera. La ciampana gli ha suonato l'Ave Maria, e che il sun mi le una mana, le una voglia, un'allegria, par che al clami la famea ha polsato al suo lavoro nella grazia del Signor. Buonasera, buonasera, buonasera, cui che struscia no dispera. Insomma la vila, io di il fum del mecialmin, chiudi il svol della cisida, senti il cian del mevisin. Ogni duna si ricrea, dopo fatti il suo lavoro, nella grazia del Signor. Buonasera, buonasera, cui che struscia, no dispera. Buonasera a cui che passa, buonasera a cui che ven. Buonasera a cui che lascia la me quarta, il meteren. Benedet dusinta voltis, cui che torna dal lavoro, con la grazia del Signor. Buonasera, buonasera, cui che struscia no dispera. Eccovi ora, une volte, che rievocazione di un tempo passato, di Giuseppe Marchetti, cui spetta il merito di aver dato alla nostra parlata una perfezione stilistica ed un vigore nuovo, e di aver suscitato in una larga schiera di giovani l'amore allo scrivere friulano, usando della parlata con perfezione e ricercatezza moderna. Une volte di queste stagioni, dopo cene si lave testale, si tiravisi intorno dal lampion, lavorando e con tanto qualche bale. Il fu Arnono, un soggei di blave tra i genoi, al parare vie l'ore specolando, e la none e bugiave, cui ociai, la solane di Piore. Fu mio pari, al chiapare una suele cusi penge di len e schiapins, imbrutiave per me che alla scuole o fiscavi anche il fiar dei brutins. Me cusine, ben ben rawaiane, e spietava il muro stal chianton, e me mari era linda parade a imblecà qualche pur di bregon. Puorei in che si era, ma intanto non si vede mai il cur ingropà. La salut cu la pas e val tant che no dut che smondaz chiadenà. Allievo del Marchetti è lo scrittore Lelo Cantoni, già brillantemente affermatosi, e che in questo Christ di Len dà una chiara dimostrazione di forza poetica in una magnifica sintesi di sentimenti. Di Len, Temon, Cassù, Tesniot di sta, con di sta, colinchiator li stelis, e di mattine blalis, e di mattine blanchi se bielis, li schioli in su. Di Len, Temon, Cassù, Signor, te cros picchiò, te cros sbrut, mal fa, ma io ti prego, cence di te, di van si va in denan. Tu sei di len, signor, ma sulla signor, ma sulla mon, talaier con, ma sulla mon, talaier cal svintule, cal bruntule, o tenef che ogni robe se pulis, o tal clap dure freddome tu, tu as vos, signor, te cros di len, tu, den, tu, dome tu, vessor, cassù.